Sono le ore 9 e 12 di giovedì 27 marzo 2024. Ieri, leggendo la postfazione di Maurizio Galluzzo al libro di Simone Librandi, l'autore artificiale, libro che consiglio naturalmente perché Simone è di gran lunga, io credo, la persona più in grado di spiegare l'intreccio tra l'evoluzione della tecnologia e tutte le implicazioni di diritto, soprattutto di diritto degli autori che ne conseguono. Ecco, leggendo questa postfazione in cui Maurizio parla molto di problemi dell'input dell'intelligenza artificiale e problemi dell'output, oggi come oggi siamo tutti molto concentrati sulla risposta, no? Che ci inquieta, che minaccia il mercato dei contenuti, insomma ci sono tante implicazioni di natura etica, per carità, però poco si dice della libertà che queste piattaforme di intelligenza artificiale hanno nel andare a pescare liberamente in tutto ciò che è stato pubblicato. Cioè, la vera killer application qui che emerge non è tanto, diciamo, le capacità computazionali, la straordinaria potenza di questi sistemi, quanto ancora una volta i big data, cioè il fatto che nel frattempo la quantità di cose da cui si possono trarre spunti è enorme. E quando appunto, per esempio, viene intervistata la CEO di Sora, come è successo qualche tempo fa, su dove queste macchine, su che limiti si pongano nell'andare a cercare, per esempio, immagini in rete su cui puoi costruire famosi video di Sora, che sono sempre più strabilianti, la risposta è molto molto vaga. Cioè non riescono mai a dare una risposta convincente. E il punto è che fondamentalmente, siccome in questo momento non c'è un quadro giuridico consolidato intorno a ciò che l'intelligenza artificiale può fare anche in termini banalmente di scraping, cioè di tutto ciò che è visibile online, loro fanno quello che vogliono fondamentalmente. E la riflessione che ne trago è questa. Dato che tutti i modelli economici sui contenuti costruiti dall'uomo, no? L'uomo che vorremmo tanto tutelare, giustamente io credo, però tutti questi modelli sono costruiti sulla capacità di creare scarsità, cioè di scrivere dei riquadri all'interno dei quali c'è ciò che il modello ritiene rilevante per il pubblico, no? Quindi noi siamo tutti avvitati sull'idea di scarsità, che è uno dei antichi concetti di un marketing però molto analogico, se mi perdonate. Ecco, poi invece ignoriamo tutte le opportunità nei modelli economici che nascono dalla moltitudine, no? Per esempio il crowdsourcing non mi sembra che sia stato colto in tutte le sue opportunità adesso che la rete lo rende disponibile, e in generale la condivisione dei contenuti difficilmente ha abilitato la condivisione consapevole di contenuti, ecco, da parte delle persone, difficilmente ha abilitato modelli economici, no? I modelli economici che funzionano sono quelli o fondati ancora sulla scarsità, cioè di soggetti che si pongono su un piano superiore, che stabiliscono questi riquadri di rilevanza, e soprattutto il cui, diciamo così, scopo è nascondere tantissime cose in modo da farne emergere alcune altre, e quindi il riconoscimento di questa autorità. E poi però segretamente invece andare a pescare la totalità di tutto ciò che inconsapevolmente le persone lasciano come traccia in rete, no? I famosi algoritmi. Ecco, se noi siamo così costretti dal nostro modo di ragionare, dalle nostre legacy, a pensare a fare affari con i contenuti solo sulla scarsità e lasciamo invece alle macchine la libertà di andare ovunque, allora lì veramente possiamo dire di aver perso in partenza. Io già so che in tanti diranno che quindi bisogna far ragionare anche le macchine in termini di scarsità, invece io temo che si debba finalmente cominciare a mettere mano ai modelli umani e a pensare seriamente alle opportunità della maggiore condivisione, del maggiore accesso alla conoscenza, perché se lasciamo un maggiore accesso alla conoscenza soltanto alle macchine, we're fucked, come dice qualcuno, siamo fregati.